Allora, siamo rientrati in diretta da Città del Capo, Radio Metropolitana, con questo speciale Crowd Rock in cui 451 frammenti sonori e altri suoni si sono uniti con ospiti Gino Dal Soler e DJ Tetro e qualche ospite in studio, vari amici, e arrivano anche un po' di sms a questo punto. Allora do anche il numero 348-7649-289 ed eventualmente il numero della diretta 2419-10 se qualcuno volesse eventualmente avere qualche richiesta particolare. Non so, noi abbiamo portato una marea di roba, per cui se magari qualcuno vuole ascoltare qualcosa che probabilmente non trasmetteremo, non lo so, lo possiamo anche tirare fuori. E continuiamo con questo discorso. Abbiamo ripreso con Crowd Rock, appunto, questo brano che io non mi ricordavo, devo ammetterlo, però è un grave difetto. Faust 4, il brano che porta il nome, pare ci sono vari eventuali su questo nome. Una versione dice che Melody Maker lo usò in titolo dispregiativo per catalogare un genere che all'epoca chiaramente gli inglesi non gradivano più di tanto, considerando appunto che ascoltavano i Pink Floyd. Appunto. O anche peggio, gli Yes. Però... dai, leggi quella frasetta di indosso, Giulia. Allora, a questo punto leggiamo l'introduzione che Julian Cope fa in Crowd Rock Sampler, che è esemplificativa. A tutti i musicisti della scena Crowd Rock primordiale, questo libro è la mia opportunità per ringraziare tutti voi, visionari, sconvolti, guru e maghi del Crowd Rock tedesco occidentale, che avete illuminato con i vostri lampi abbaglianti i primi anni 70, e qua lui va giù pesante, quando attorno a noi non c'erano altro che le seghe a vuoto di Emerson, Lake & Palmer, la spiritualità fonata degli Yes e il peggio del peggio in assoluto, i mantra da soggiorno dei Pink Floyd di Dark Side of the Moon. Grazie per avermi mantenuto sano di mente e per la musica del vero genio che ogni giorno si fa più integra e sacra. Julian Cope. Grande, un applauso. Grazie, ci vuole un applauso. Grande, assolutamente. Verbo, che tra l'altro è tornato quest'anno con un dischetto niente male. Sì, a suo nome. Ah. Che si chiama Psychedelic Revolution, tanto per cambiare. Ma molto, molto inferocito, fra sì, l'altro. Sì, sì, con dei pezzi anche belloci, devo dire che non è male. Non è male. Ma non ha mai smesso di produrre in maniera malvagia, un po' deviato qualche volta. Sì, però un personaggio integro. Assolutamente. Noi allora adesso lasciamo la parte forse più rock del Crowd Rock, appunto, con questo brano che era la summa del tutto, e passiamo alla parte più meditativa, ipnotica, come dire, cosmische. Chissà, sì, il lato più esoterico forse, come si definivano anche loro, tra l'altro, no? Quello che guardava le stelle, insomma, i Corrieri Cosmici, giustamente. C'è pure un disco, infatti, esatto, che lo ascolteremo dopo. E non a caso i Popol Vuh sono stati il fulcro di tutto questo movimento, Florian Freak e tutti i suoi vari collaterali. Adesso ne parleremo diffusamente, ma giusto per capire la trasmutazione in qualche modo vera e propria che ha avuto la musica dei Popol Vuh, dai primi dischi assolutamente elettronici ed ermetici alla seconda parte molto più acustica, psichedelica e in qualche modo quasi figlia dei fiori, da Hosanna the Mantra in poi, molto dolci anche. Ascoltiamo un estratto di Vuh e poi passiamo direttamente a Hosanna Mantra, e poi dopo Gino ci spiegherà un po' di cose. Beh, forse è stata mia la scelta di far sentire questo pezzo, perché diciamo che per me è stata un'epifania la scoperta di questo disco, che ero ancora praticamente un ragazzino, 14 anni, 72, insomma. Sì, è sempre che stiamo ruotando attorno al 72, perché esattamente 40 anni fa. È incredibile che anno che fu, insomma, no? E fu davvero una scoperta, perché prima di allora non mi era mai parso di sentire, ecco, Pink Floyd erano un punto di riferimento, come se i suoni più innovativi fossero i loro. In realtà i Popol Vuh poi sono stati il pretesto anche per scoprire un mondo che andava, che ne so, da Stockhausen fino a tutti i gruppi che abbiamo citato prima e tutti quelli che sono venuti dopo. Quella dei Popol Vuh è stata chiaramente un amore a prima vista, un amore che è rimasto nel tempo, che nel tempo ha subito anche delle delusioni, perché è il caso di dircelo. I Popol Vuh degli anni 80 e 90 non erano certo più i Popol Vuh dei primi 70, questo va detto. Ma come quasi tutti questi, perché anche Can degli anni 80, o i Kraftwerk degli anni 80, i Noi poi non c'erano più, insomma. Tutti questi negli anni 80 si sono stranamente persi, in un modo o nell'altro. Tranne Kraftwerk, che sono d'accordo. Beh, vabbè, sì, perché i Kraftwerk comunque sono riusciti comunque a mantenere tutta una loro visione coerente col tempo, insomma. E Popol Vuh, sì, anche la loro è stata una visione coerente musicalmente, sicuramente è stata involutiva, questo è doveroso dirlo. Però devo dire che tra il 72 e anche il 79 le colonne sonore di Herzog sono fondamentali, insomma. È uno dei punti più incredibili della cinematografia di sempre, Aguirre fino a Nosferatu, insomma, fu un momento veramente vitalissimo. E loro poi si sono rifatti davvero una fama anche oltre la scena tedesca, proprio con le colonne sonore dei film di Herzog, no? Per cui c'era gente che li conosceva per quello, certo, e che magari non ha mai sentito Osianna Mantra o Selig Preisung o in Garden Pharos, tutto quello, insomma, che veniva prima, infatti. Però indubbiamente da Affenstund a questo disco che abbiamo in sottofondo, The Garden Pharos, sono stati, come dire, i punti, due anelli fondamentali della nascita della cosiddetta musica cosmica, elettronica, visionaria, chiamatola come volete, che però nel caso di Popol Vuh ha avuto in qualche modo una sorta di conversione, qualcuno ha detto conversione mistica, qualcun altro ha detto una sorta di revisione, di restauro interiore. Comunque, al di là di questo, indubbiamente con Osianna Mantra muta tutto. Popol Vuh abbandona il suo meraviglioso Moog, che ha venduto a Klaus Schulze, a quanto pare. Non l'ha venduto al primo che passava di là. E il suo meraviglioso Moog, quello con tutte quelle manopole, fili, che si vede benissimo nella retrocopertina di Affenstund, e ha detto vabbè, adesso io passo al pianoforte. E però si è circondato di musicisti eccezionali, perché ha messo insieme Connie White, che veniva dai Gila, che per me è uno dei più fantasiosi, innovativi chitarristi e sottovalutati dell'epoca. Poi c'era Klaus Wiese alla tambura, quindi strumento indiano, un drone di bordone. E poi c'era questa particolarissima cantante coreana, la Dong-hyun, per cui poi qualche ospite occasionale, perché poi variavano spesso, finché arrivò col terzo disco, credo, Danny Fischelser, non so come si pronuncia, sì, comunque sì, lui fu riuscito dagli Amondul, a un certo punto arrivò, credo, da Selig Preisung in poi, e tra i due si creò un sodalizio che durò praticamente fino alla fine, poi, perché lui in qualche modo sono rimasti amici fino... Frick, ahimè, è morto nel 2001, quindi ormai sono più di 10 anni, morto giovane anche lui, e tra l'altro in una fase in cui stava di nuovo riprendendo creativamente il discorso, ecco, questa è la cosa curiosa da dire. E però il passaggio tra In the Garden Pharos, che è quello che, e Osianna Mantra fu in qualche modo netto, e fu anche uno shock per molti, perché nessuno se l'aspettava, no? io per primo mi ricordo che ero a Brescia, entrai in questo negozio, vidi in vetrina la copertina di Osianna Mantra, mi fiondai dentro e c'erano due signore che a quel tempo erano in... ora sicuramente non esistono più, perché erano già in là con gli anni in quel periodo, e chiesi a queste due signore che gestivano il negozio, incredibile, eh? Queste qui ne sapevano a pacchi. Cioè, si chiamavano tra di loro le nonnette cosmiche. Salmo Iraghi era il negozio ed erano due sorelle proprio, che avranno avuto 60 anni all'epoca, ma se non di più, E allora entrai in cabina, mi sono fatto mettere su sto Osianna Mantra. E cos'è sta roba? Ascoltiamola, dai, ascoltiamola, quindi, così. Ascoltiamo, così facciamo capire che cos'è. Thank you. la stiamo sempre ascoltando, Osanna Mantra. A questo punto, siccome è uscito l'anno scorso proprio un Popol Vuh Revisited e Remixed degli anni proprio d'oro, con tutta una serie di remix da vari personaggi contemporanei, tra cui One Trick Point Never, e non me li ricordo tutti sinceramente, non ce li ho sotto mano. Uscì anche l'anno scorso, due anni fa, uno dei Pansonic addirittura. Sì. E c'è questa reinterpretazione di Osanna Mantra, niente di meno che degli Stereolab, che di, a me verrebbe a dire non c'entra niente. Comunque. No, ma in realtà dopo faremo anche sentire, sì, perché c'entrano. Come? Senza però crowd, devo dire che a mio punto di vista hanno fatto una bella reinterpretazione. Ma io questa diventa un po' problematico per me, no? con queste rivisitazioni. Cioè, mi ricordo che cos'era, i primi anni 2000 o addirittura ancora anni 90, quando uscì quel Sacrilege dei... Sì. Ah, sì. E un bruttarello, tra l'altro. Dico, io sono rimasto piuttosto inorridito, devo dire, per usare un eufemismo. Cioè, nel senso che lì ho trovato che c'era veramente delle cose... Non perché per forza di cose ci devono essere i mostri sacri intoccabili, per me è difficile immaginare dei remix, soprattutto se poi sono anche remix che usano o pretendono di usare la voce, per esempio. Capisco la necessità di farlo, la bravura, l'omaggio, il tributo, tutto quello che volete, ma sentirmi, non so, dei remix di certi nomi, adesso cito uno tra tutti che valga per tutti, Robert Wyatt... Tutte le volte che tenti di imitarlo, di farne dei pezzi, non ci riuscirai mai, perché non ce la si fa, certo. Insomma, no? È come tentare di imitare la voce di Nick Drake o che ne so, non lo so. Però in realtà qui gli Stereolab hanno limitato, secondo me, l'intervento a poche cose di contorno. La voce ci sente ancora, hanno esaltato alcuni suoni, però... Mi sembra interessante, ascoltiamo un piccolo estratto. Sai cos'è interessante secondo me? Ecco, perché insieme ai Ken, ai Faust, i Popol Vuh sono senz'altro forse il terzo gruppo più citato dalle schiere degli avant folk, degli avant rock, eccetera. È interessante il lavoro che parecchi musicisti negli anni hanno fatto, ma non imitando i Popol Vuh, ispirandosi a loro, soprattutto nell'uso chitarristico di Connie White nella chitarra. Penso ai Chara Lembedis. Infatti tutta la nuova scena psifolk. Psifolk, no? Molto di quella scena, ma anche i gruppi tipo i Bardo Pond, queste chitarre molto dilatate, molto cosmiche. Ma addirittura anche una corrente di certa industria degli anni Ottanta, più vicino al suono... che poi è stato chiamato così in maniera un po' fuori luogo, folk apocalittico, sì. Però di fatto, insomma. Sì, c'è comunque, come dire, un punto di riferimento. Ecco. Ok, ascoltiamo Osanna Mantra remixata dagli Stereolab. Thank you. Bene, abbiamo lasciato i Popol Vuh e siamo entrati in un altro viaggio cosmico, ancora più stralunato, ma molto affascinante. Beh, direi soprattutto più lisergico, perché con gli Ashera Temple siamo davvero in territori acidi. E in senso figurativo, letterale, tutto quello che ci potete immaginare, con tanto di uso di sostanze sacramentali, perché nessuno fa mistero che Goshing, Manuel Goshing e compagnia, in quegli anni insomma erano molto amici di Timothy Leary, che ci hanno fatto anche un disco, ci hanno fatto un disco che incontrarono tra l'altro proprio durante la sua famosa e rocambolesca fuga dal carcere, dove a un certo punto venne ospitato in Svizzera. E in Svizzera c'è questa bella comunità di scoppiatissimi hippies, c'era Sergius Golowin, c'era, ma anche Walter Wegmüller, amico, quello che fece poi Tarot. E insomma da lì nacquero un bel po' di cose, di sintonie, insomma circolarono sostanze a gogo, e da tutto questo giro, da questi incontri, da queste visioni, nacque quello che secondo me è un altro dei capolavori della cosmica tedesca, appunto Schwingung, che vuol dire infatti vibrazioni, e anche questo targato 1972, ed è diciamo forse l'unico album degli Ashera Temple insieme al primo che ha una formazione decisamente rock, sì, quindi perché... con chitarre, basso, batteria. Dopodiché loro cominciano, dopo partono anche loro con partono per lo spazio. Fanno forse il processo inverso dei Popol Vuh, che prima hanno fatto l'elettronica e poi sono andati più all'acustica. Questi hanno fatto il contrario. Però poi salvo tornare di nuovo. vabbè. Perché poi già subito dopo ritornano. Flower Must Die, se no ce la stiamo perdendo. Anche se dura. I fiori devono morire. Infatti, questo era il resoconto di un viaggio acido, appunto. Anche acido. I need. Allora, ancora Ashra Temple, da un viaggio lisergico forse venuto un po' male a uno decisamente venuto meglio, almeno ma per fortuna riguarda. Io aggiungo venuto male, perché è sì, una no, dei, venuto delle male, cose ma più allucinanti ma del dopoguerra, assolutamente per noi bene, per lui forse un po' peggio, però questo invece è venuto bene anche per lui, perché si è proprio queste musiche così dolcissime, assolutamente sognanti, con questo chiaramente Join In, questo brano Gen Size dura 24 minuti. Il difetto di questi che ascoltiamo da ora in avanti è come condensare in 5 minuti una cosa che andrebbe ascoltata in 25-30, è impossibile. Per cui a questo punto facciamo solo dei piccoli excursus, dei piccoli assaggini, perché non è assolutamente possibile se non fare in questo modo. D'ora in avanti quasi tutti i brani che passeremo saranno dai 20 minuti in su, e quindi bisogna tagliare. Sì, se qualcuno sarebbe contento no, di questi tempi. Tagli, no? Siamo nel clima dei tagli, stiamo seguendo l'andamento nazionale. E per cui niente, questo di Ashra Temple Join In è sempre del 73, registrato nel 72, uscito nel 73, vede il ritorno di Klaus Schulze, che fu il primo batterista proprio, che allora faceva solo il batterista anche qua, se non sbaglio. Non credo che avesse una parte anche elettronica, quindi, sì, aveva già cominciato, sì, adesso poi ne parleremo. E niente, ascoltiamo un altro pochino di questo Gen Size e poi passeremo a quelle che è la parte subito successiva di Manuel Goetsching con le sue invenzioni per chitarra elettrica e con le 2-4 che hanno ispirato una marea di epigoni successivi. Lo stesso Steve Reich, secondo me, è preso da lì con Electric Counterpoint, quello di almeno 10 anni dopo. Sicuramente molti hanno usufruito di questo. Lì proprio il minimalismo puro che in qualche modo fa un cortocircuito da Riley a Gershwin, poi di nuovo a Reich, e poi mi dicevi anche Carl Craig in successivo. Craig l'ha utilizzato, molti altri DJ usano per le loro produzioni tutte le basi poi della fine degli anni 70-80 di Gershwin e altri. Beh, molti annoverano le 2-4 come proprio il pezzo che ha anticipato la house insieme a certe, sì, certe che praticamente sono delle invenzioni dei ricami per chitarra messi in loop e con variazioni minime più che minimale. Assolutamente minime, poche cose che girano continuamente, un loop quasi. Sarebbe stato interessante, che anche qui è sempre la questione del tempo, e non so se ricordate che Manuel Goshen a un certo punto negli anni 90 ha fatto uscire 6 CD, anche lui i soliti famosi Lost Tapes, e di materiale che non era, insomma, materiale inedito che non era uscito su dischi, private tapes li aveva chiamati, 1-6, erano 6 volumi e oggi sono fuori catalogo, quindi anche piuttosto ricercati. Com'erano? E c'era dentro tantissima roba, c'erano addirittura dei live degli Asherah Temple che erano piuttosto rari, live proprio del periodo d'oro, quindi non so, tipo un CD, un pezzo da 40 minuti era solo live, per dire. Perché dal vivo picchiavano molto duro, gli Asherah Temple erano molto più sanguini. Alla Flower Must Die, insomma. Sì, tosti. E soprattutto il primo periodo 71-72. E poi però c'erano anche molte, secondo me, side effects, proprio effetti collaterali del periodo, New Age of Art e I2E4. Che stranamente anche pezzi piuttosto belli, mi viene da dire, no? Per cui in un certo punto non ho capito per quale motivo poi li ha tenuti nel cassetto, forse perché vabbè anche i Ken adesso tirano fuori questi pezzi. Però nel suo caso si li ha fatti uscire lui, li ha chiamati private tapes, per cui praticamente non so se si potevano prendere direttamente da lui, insomma. Ah no, fu Schulz, credo, il solito Schulz con lo zampino. Chi era l'altro amico di Schulz che gli stampò anche del materiale? Müller si chiamava? Non me lo ricordo. Era un manager, non era un musicista. Sì. Quello che ricordo. Cosmic Jokers? No, era un produttore che aveva, non era Dieter Dierks. Niente. Adesso non mi viene in mente. Comunque mi sembrava che si chiamasse Wolfgang Müller, una cosa del genere, però non ci metto la mano sul fuoco, non vorrei sbagliarmi. Però lui fece uscire questo materiale che conteneva dei pezzi anche piuttosto notevoli. Bene, allora un altro 2-3 minuti di sogno con Gene Sides e poi passiamo a queste invenzioni varie per chitarre elettriche, loop e minimalismi. Thank you. nostri deliri ci siamo quasi persi che sta per arrivare il GR delle 0030, per cui il previsto è 2.4, i 2.4 lo ascoltiamo subito dopo il GR per rientrare in tema, sempre Manuel Gorsching, sempre Krautrock e Cosmische. C'era un ascoltatore che... Ah giusto, poi ringraziamo l'SMS che ci è arrivato e che ci suggeriva come produttore Ralf Ulrich Kaiser, che giustamente è stato il manovratore nell'oscurità di tutta la scena. Però non era lui, quello delle private tapes di Manuel Gorsching, non era lui. E comunque era quello che ha manovrato tutti. È una figura folle perché è l'inventore della Pils, della Kosmische Scurier, insomma, personaggio anche ambiguo, discusso, è stato accusato da Schulz di avere praticamente sfruttato tutta una serie di musicisti a suo uso e consumo, insomma praticamente di essersene andato con la cassa, insomma, morale della favola, e non pagava i musicisti, però lui si pagava, e insomma... Bene, allora GR, poi ci risentiamo. Speriamo che Gino abbia ancora voglia di rimanere. Non lo so ancora. Non lo sa adesso per quanto resiste. Comunque va bene. A risentirci dopo il GR.